Vale la pena innanzitutto dire un paio di cose. Queste due settimane sono sicuramente un periodo in cui, in maniera casuale, in virtù dell'ordinanza, quindi la riduzione del traffico, si può capire bene quale può essere l'influenza del traffico veicolare, in particolare nell'area vasta della pianura padana, non solo in Emilia-Romagna. Infatti le regioni più colpite dalle ordinanze restrittive sono proprio Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che rappresentano i maggiori afflussi di produzione di inquinanti che poi vanno a pesare sui dati di inquinamento atmosferico. Penso che sia utile intrecciare i dati dell'inquinamento anche con quelli meteorologici, ancora non abbiamo avuto tempo di farlo. Certamente in questo frangente abbiamo probabilmente alcune risposte, cioè il fatto che sicuramente riducendo il traffico, riducendo in un'area vasta, è possibile migliorare la qualità dell'aria in maniera significativa. Quanto sia significativa e se questo ci salva sempre dallo sforamento dei limiti è presto per dirlo. È chiaro che va inserito questo ragionamento in modelli matematici che ci permettono in qualche modo di avere delle risposte più solide. La prima osservazione che appare a tutti, ma non solo in Emilia Romagna ma anche in altri contesti, è che sicuramente la riduzione delle emissioni è avvenuta. Quello che vale la pena però anche dire è che fermare tutto non è la strategia che mi pare essere la migliore. Bisogna capire come continuare a operare, costruire relazioni, costruire vita economica e anche sociale, riducendo invece le emissioni, in particolare relative alla mobilità e agli spostamenti. Credo che un investimento in una mobilità sostenibile a zero emissioni possa essere una soluzione importante che ci permette di mantenere sia la qualità della vita e delle relazioni che conosciamo in tempi non fuori dalle ordinanze restrittive, che però salvaguardano anche in quel periodo la vita delle persone, che in particolar modo le emissioni sappiamo rendono, incidono in maniera particolare sulla mortalità anche per malattie respiratorie. Se queste ordinanze possono eventualmente avere avuto un effetto collaterale positivo, ovviamente non ci possiamo immaginare che tutto venga bloccato, perché appunto poi ne risentirebbe anche dal punto di vista sociale e economico il paese. Però nonostante questo è possibile immaginare delle soluzioni che portino a un miglioramento della qualità dell'aria. A me sembra che questa conclusione fosse già presente e già nota. Abbiamo un esperimento nostro malgrado condotto su larga scala da queste ordinanze e secondo me dovremmo trarne tutti i frutti scientifici e le indicazioni anche politiche necessarie a contenere l'inquinamento da traffico. Questa forse è la sintesi più corretta, visto che comunque qualche effetto stimabile, seppur in maniera grossolana, dai primi dati già è osservabile. Io non penso che ci sia niente di positivo del coronavirus, ma penso che comunque appunto la scienza impara anche nelle condizioni di difficoltà, e questa è una condizione che ci permette di rendere ancora più evidente quanto una riduzione della mobilità e quindi delle emissioni relative alla mobilità possono incidere. Dico una cosa importante: sarebbe molto utile, come più volte abbiamo detto, ovviamente connettere questa riduzione a due parametri, quelli meteorologici che ci permettono di capire appunto qual è l'incidenza delle singole giornate e del maltempo su questi dati, e anche quelle di traffico, quindi capire quanto si è ridotto il traffico per le ordinanze, quanto questo possa aver inciso, ci potrebbe dare una stima molto molto precisa di quello che è l'effetto e di quelli che potrebbero essere gli obiettivi in un nuovo piano aria nell'Emilia Romagna.